24 di Giovanni Minoli. Presidente Berlusconi, buongiorno. Buongiorno signor Minoli. E intanto come sta? Bene? Bene, grazie. Bene? Io sto benissimo, la vedo spopolare in televisione, quindi immagino che si è ripreso bene. Sì, assolutamente, credo proprio di sì. Senta, quindi se ho capito bene, il nonno, il padre nobile che sembrava aver scelto di essere, l'ha seppellito definitivamente, insomma. No, ci sto ancora pensando. Intanto mi godo i miei 10 nipotini che sono una delizia. Senta, è tornato in campo in piena forza con Grillo per vincere il referendum contro Renzi, ma si trova bene nel fronte del no? Dei no, tra i sostenitori del no non abbiamo contatti, non ci sono dei contatti imbarazzanti. Ognuno fa il suo no. Sì. Senta, ma Renzi dice che è una conzaglia quella del no, ha torto? Beh, penso di sì, perché dovrebbe guardarsi intorno e vedere com'è circondato lui. Senta, Presidente, lei però sul fronte del centrodestra è diventato molto duro con Parisi, che ha preso un po' a legnate, non ha un po' esagerato? No, io non ho mai preso legnate nessuno, e tantomeno Parisi, al quale al contrario auguro di avere successo, visto che si è detto parte del centrodestra. Ma anche Parisi l'ha scoperto un po' senza quid? No, guardi, più che senza quid, Parisi per ora è senza voti. Speso che qualche voto gli arrivi. Senta, lei dice che Parisi divide, non mette insieme come dovrebbe fare. Bossi però dice che neanche Salvini va bene perché ha troppa fretta. Insomma, fuori tutti e due? No. Al contrario, dentro tutti e due, perché il centrodestra da sempre vince soltanto se è unito e se ha un programma comune, e a questo programma comune noi stiamo già lavorando tutti insieme ed è pronto al 95%. Senta, ma però sembra che dopo Berlusconi sostanzialmente ci sia solo Berlusconi. Eh no, ci deve essere per forza qualcun altro. Senta, chi allora? Per ora è un segreto. Un segreto? Lei ce l'ha in anche testa, per però? Me, anche per me. Ha un segreto anche per lei, deve scoprirlo anche lei? Sì. Si affiderà alle primarie oppure no? Ma guarda, le primarie potrebbero andare bene se non ci fosse un leader che avesse già il consenso di tutti. Ma si potrebbero fare se non fossero le primarie farsa della sinistra, largamente manipolabili, con degli stranieri che insomma, vanno a votare. Insomma, ci vogliono garanzie, insomma, sì, garanzie. Esatto, ci vorrebbe una legge che regoli le primarie, e allora si potrebbero accettare. Senta, intanto sul referendum Confalonieri ha schierato se stesso e Mediaset per il sì, anche per paura dell'azienda. Lei poi ieri sera un po' smentito, ma paura di cosa? Ma guardi, la paura è esagerata, ma tutte le aziende sottoposte a concessione da parte del governo hanno per forza un certo timore e desiderano un rapporto sereno con il governo, di qualunque colore il governo sia. Però lei ha detto che si è un po' pentito ieri sera. Di cosa si è pentito? No, perché è stata interpretata in una maniera, diciamo, diretta a questo governo e allo stesso Renzi. Io invece parlavo in generale. Senta, ma è perché quando Renzi dice di sé quello che mi ha detto c'è da temere? Senta cosa mi ha detto prima il di rispondere. Il suo peggior difetto qual è? Talvolta troppo cattivo, è come un po' arrogante e talvolta anche impulsivo, se no non l'avrei risposto così. Lei che lo conosce bene, davvero così? Beh, insomma, bisogna credergli. Coraggioso, se lo però dice lui, bisogna credergli. Coraggioso, fare un po' di autocritica. Sì, certamente sì. Senta, lei sembra oscillare però nel giudizio su Renzi. Senta quello che dice lei. Oggi in Italia, se devo dire la verità, i leader veri dentro la politica ce n'è solo uno e si chiama Matteo Renzi. Renzi ha due qualità che non si possono non riconoscere. Uno è un grandissimo affabulatore. Credo il numero uno nella storia della Repubblica. È un grande e la seconda cosa che ha Renzi, 40 anni, la metà dei miei anni, ha una grande energia e un grande dinamismo. Bene. E quindi può stare in diversi posti ogni giorno per raccontare le sue bugie. Ecco, Presidente Berlusconi, ma è più leader o più bugiardo? Pronto? Pronto, sì. Ma guardi, i leader in campagna elettorale sono quasi tutti un po' bociardi. È necessario. Renzi comunque è certamente un grande lavoratore. solo che secondo me ha sbagliato lavoro. Perché? Che lavoro doveva fare? Beh, quello che lui aveva annunciato di voler fare se fosse andato mai in politica, il presentatore televisivo. Ah, lei l'avrebbe assunto subito? Io lo prenderei subito, sì. Senta, ma la caratteristica di tutti i leader è quella di raccontare un po' di balle, eh? Ma guardi, per quanto mi riguarda non è mai stata la lei mia caratteristica, mai? Ma la gente ha la sensazione che i politici non dicono mai la verità. Senta, ma la verità in politica paga oppure no? Mettiamola così. Io penso che paghi. Penso che la verità sui programmi e il mantenimento dei programmi che si presentano agli elettori durante le campagne elettorali paghi, ed anzi credo che questa sia la vera moralità della politica. Poco seguita però. Io l'ho seguita fino in fondo. Ci ha provato, dice. Vabbè. Senta, presidente Berlusconi, visto da fuori però sembra che lei spinga tutti a votare no, perché per il no, però mantenga per sé una piccola riserva, mi sbaglio? Assolutamente sì, il mio no è da sempre un no deciso, convinto, un no responsabile, perché questa riforma è pericolosa, consegna per sempre il Senato alla sinistra e quindi garantisce la ingovernabilità al centrodestra nel caso che il centrodestra vincesse le elezioni, e poi soprattutto apre la strada ad una possibile deriva autoritaria. Mi sembra che sia moltissimo, e quindi come possiamo essere d'accordo? Senta, anzi, è una riforma che ci fa paura. Senta, che cosa ci ha detto qui a Mix 24 ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Vincenti, insomma un po' il Gianni Letta su di Renzi? Ma io spero che Berlusconi stia forse ripensando in realtà al fatto che ha sbagliato a dire di votare no. Lo smentisce? Io, guardi, credo che questa affermazione non siano davvero in molti a pensarlo, ma comunque sarebbero in molti a pensare male, ecco. Perché è una cosa assolutamente sbagliata, è una cosa contraria al vero. Aggiungo, visto il paragone con Gianni Letta, che ha fatto il segretario, stesso che Gianni Letta ne esiste uno solo e noi abbiamo la fortuna di avere l'originale. Un solo Gianni Letta, un solo Berlusconi. Sì. Senta, ma non è che poi farà, perché l'ha fatto, come col governo Letta, quando ha mandato Brunetta in Parlamento a dire no, che sarebbe stato, che avreste votato contro, all'ultimo istante lei ha cambiato idea e ha salvato il governo. Non è che, guardi, capiterà una cosa io simile? Io l'ho fatto per salvare l'unità del Popolo della Libertà, perché c'era il pericolo di scissioni, quelle scissioni che poi purtroppo sono avvenute. Sì. Ho rinviato la decisione di qualche settimana e poi ho ritirato l'appoggio al governo perché non lo meritava, e non lo meritava perché non rispettava i patti. Però Brunetta era andato lì a dire il contrario un minuto prima. Beh, io non mi ricordo cosa ebbe a dire Brunetta. Io so che io avevo continuato a tenere il sostegno per il governo, perché avevo dei problemi interni alla maggioranza. Senta, presidente Berlusconi, ieri Il Foglio ha pubblicato il suo discorso alla Camera del 2 agosto del 1995. Lei se lo ricorda? Sì, sì, ecco. L'ho anche riletto, è un bellissimo discorso, bellissimo pieno discorso di contenuti. E io lo cito spesso in questi giorni, dico che già dal 1995 io mi ero alzato da oppositore alla Camera per affermare la necessità di una riforma della Costituzione. Ma lei chiedeva infatti la riforma del sistema bicamerale, come lo chiede Renzi, chiedeva un Senato delle autonomie locali, come chiede Renzi, addirittura sul Premier eletto andava oltre Renzi. Perché ha cambiato idea così radicalmente? Ma perché questa riforma, congiunta alla legge elettorale che esiste, che è valida, potrebbe produrre, come ho detto prima, una deriva autoritaria. Ma lei non crede, non crede a Renzi? Lei ha letto tutto quel discorso. Sì, io chiedevo principalmente tutto, l'elezione diretta del Capo dello Stato, certo. E un rafforzamento dei poteri dell'esecutivo del Premier, sulla base di una dei poteri di tutti i colleghi europei. E di questo nella riforma di Renzi non c'è traccia, anzi lo stesso Renzi, l'ho sentito l'altro giorno, si vanta che i poteri del Premier non siano cambiati. Non sono poi cambiati, chiedevo il federalismo e l'applicazione del principio di sussidiarietà, e invece la riforma di Renzi crea un nuovo molto pasticciato centralismo, questo togliendo potere alle regioni. Chiedevo garanzie per la libertà economica e per i diritti di libertà dei cittadini, questa riforma non ne parla. Chiedevo maggiore efficienza nelle procedure parlamentari. Vabbè, e quindi... la nuova Costituzione le renderebbe al contrario più confuse, più farraginose. E per essere precisi, non chiedevo affatto un Senato delle autonomie. Beh, quello lo dice in lei. Tutto il discorso, sapere, guardi, sì. L'ho letto bene, la parola anch'io, Senato sì. Non è mai stata pronunciata, no, lei no. Può controllare. Sì, sì. Ecco, però mi piacerebbe che gli amici sì. Del Foglio mi spiegassero in cosa avrei cambiato idea. Aggiungo che forse è il giornale fondato dal mio amico Giuliano Ferrara ad aver cambiato la linea editoriale negli ultimi tempi. Senta, ma lei non si sente un po' prigioniero di un tatticismo politico che lei ha sempre odiato e combattuto? Niente affatto. No. La mia scelta del no è una scelta strategica. Mi sembra di essere estremamente chiaro, lineare, coerente. Senta, ma tutto questo per mandare a casa Renzi e per trattare con lui subito dopo? No, assolutamente no. E intanto è assai probabile che Renzi resti perché conserva la maggioranza in Parlamento, una maggioranza diciamo artefatta, ma comunque una maggioranza. Comunque lui ha personalizzato il referendum per cercare quella legittimazione elettorale che non ha mai ottenuto. Ma quindi anche se perdesse, secondo lei deve restare? Io alla maggioranza, quindi sarà no, una ma sua cosa pensa? Decisione, ma non ha saremo noi a poterlo mandare a casa. Quindi voi, ma non lo potete, ma lo vorreste o no? Ma è indifferente, guardi, la cosa importante sì. È che subito dopo le elezioni ci si possa sedere tutti i partiti esistenti sì. Intorno a un tavolo. Per fare la legge elettorale. E per fare anche un'altra riforma della Costituzione che serva davvero all'Italia e che contenga delle cose molto importanti. Quindi intanto un limite costituzionale alla pressione fiscale, per cui nessun governo, neppure un governo di sinistra, d'accordo, possa aumentare le tasse. Poi un taglio, oltre naturalmente al limite indicato in Costituzione, poi contenga un taglio drastico al numero dei deputati e senatori. D'accordo, va bene, non una serie di cose. Cioè contro i 1000 attuali, 300 da una parte 150. Sì, ma ci vorranno altri 30 anni? No, non è vero, perché sono molto ragionevoli queste cose. Per esempio, tutti sono sicuro che accettino di introdurre il vincolo di mandato. Certo. Un parlamentare non deve poter cambiare schieramento. Senta, deve ma lei... rispettare il voto degli elettori e se cambia idea deve dimettersi. Deve... E poi in fondo una cosa importantissima che noi serviamo da sempre, l'elezione diretta del capo dello esatto, Stato, come ha detto prima, da sottrarla ai partiti e affidarla d'accordo. Ai cittadini. Senta, Presidente, per passare a un tema che le è caro, cioè la politica estera, lei vede un'analogia tra lei e Trump? Ma guardi, siamo entrambi due imprenditori che hanno lasciato il loro lavoro. Ma insomma, le piace Trump? Direi che ha lasciato tutti noi perplessi. E adesso tuttavia sta procedendo sia nella scelta dei collaboratori sia nella diciamo nelle prime cose che ha annunciato di insomma da seguire delle cose così, no? Ragionevoli. Comunque direi che dovremmo lasciarlo lavorare prima di giugno. Senta, ma lei pensa che l'accordo tra Putin e Trump ne parla molto, riuscirà a mettere pace nel Mediterraneo? Guardi, io ho sempre sostenuto che soltanto una coalizione sotto l'egida dell'ONU tra Stati Uniti, Unione Europea, Federazione Russa e forse anche la Cina possa risolvere il problema dell'ISIS e del Mediterraneo. Sì. Io considero molto positivo il fatto che il Presidente Trump intenda impostare il suo rapporto con la Russia in termini più costruttivi rispetto all'amministrazione Obama, perché la Russia è un partner fondamentale dell'Europa, dell'Occidente, è un partner per la pace, per la sicurezza nel Mediterraneo. Ma quindi sarà sempre di più Putin il punto di riferimento anche per l'Europa? Un po' come diceva De Gaulle. Guardi, sarà la Federazione Russa a far parte, come ho detto, a far parte obbligatoriamente dell'Occidente. Putin ha dimostrato di essere un leader, un uomo di Stato con grandi capacità di visione, un coraggio, una determinazione che non ho visto in nessuno dei leader occidentali presente. E quindi l'Europa, secondo me, ha tutto l'interesse ad un rapporto sempre più stretto con la Russia, che d'altronde, ripeto, è parte dell'Europa a tutti gli effetti. Quindi bisognerebbe intanto togliere le sanzioni. Bisognerebbe intanto tanto, scusi? Togliere le sanzioni. Ah, beh, le sanzioni sono stato certo. Un atto di masochismo puro. So. Senta, Presidente Berlusconi, lei crede che l'accordo sul nucleare, che è stato un accordo importante tra gli Stati Uniti e l'Iran, reggerà con la presidenza Trump? Ma guardi, quell'accordo è stato, diciamo, quantomeno frettoloso, ma adesso rimetterlo in discussione potrebbe creare problemi ancora più gravi. Credo che Trump dimostrerà molto realismo e concretezza nella politica internazionale, ripeto, sta già dando i primi segnali in questo senso. Quindi la lotta al terrorismo potrebbe diventare più efficace. Solo se si attuerà quella coalizione di cui ho appena parlato. Ha detto prima. Senta, Presidente, voglio fare ancora una domanda. Lei dice di voler chiudere con i cinesi sul Milan, se ho capito bene, ma che se restasse, Presidente, onorario o no, deve decidere gli acquisti, la tattica, e Galliani deve restare a decidere. E i cinesi cosa fanno? Vanno allo stadio e guardano? No, investono soldi per riportare il Milan al livello mondiale che gli compete. A me è stato da loro richiesto. Certo, immagino. Di mettere a disposizione del Milan la mia esperienza, sì. E vedrò come ma pensa come di farlo? Possibile. Pensa di farlo? Non lo so, guardi, dipende se avrò la possibilità di essere un presidente operativo. Almeno due prerogative, quella di dire no o sì sugli acquisti e sulle vendite e anche di intervenire sulla tattica in campo. Cioè di decidere tutto praticamente. Beh, no, ci sono tante cose. Altre di, cose, da sì. Fare. Senta, un'ultimissima cosa, con Bolloré, la pace sulla PEI, è un accordo che si avvicina oppure si allontana? Ma guarda, non saprei che dirle, da 20 anni non mi occupo più della gestione delle aziende che ho fondato. Vabbè, ma gliene parleranno. Ecco, sì, però io continuo ad affermare che i rapporti fra i grandi gruppi imprenditoriali dovrebbero essere fondati sulla collaborazione e sulla correttezza reciproca, sì. Soprattutto in un mercato difficile come quello delle telecomunicazioni. Certo. Ecco, ma posso dirle anch'io un'ultima cosa? Sì, come no? Guardi, vorrei ricordare, perché questo ho visto che in molti non l'hanno presente, sì. Che questo referendum non ha il quorum, significa che non è come con gli altri referendum, certo, è necessario che non si va a votare il referendum non vale, questo referendum varrà anche se saranno soltanto 10 persone ad andare a votare, certo. Quindi tutti coloro che hanno scelto e sentono dentro che la giusta risposta al referendum è un deciso no, non possono stare a casa. Insomma, dice così, bisogna andare a votare. Andare il a suo votare. È un grande invito ad andare a votare. Certamente. Grazie, Presidente. Senta, Presidente, un'ultimissima cosa. Se lei poi volesse venire a faccia in televisione, visto che l'ho visto dappertutto, io l'accetto sulla 7, mi farebbe un gran piacere. Va bene? Vediamo se il programma fitto che mi hanno costruito lo consente. Verrò con molto piacere. Grazie, Presidente. Grazie, arrivederla. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, ce l'hai un'opinione? Sì, è sempre in campo. Sempre in è campo. Così. Tu, così. Pietrangelo, che dici? È sempre in campo, però certo. A modo suo, seminando la confusione. Semina confusione. Beh, nell'elettorato che ha creduto in lui, quella stragrande maggioranza di italiani che ha costruito anche il ventennio berlusconiano, la confusione resta. Perché comunque quello che ha. Beh, il suo invito è preciso: andare a votare. No. Tra il dire e il fare, cioè sei in compagnia di Berlusconi, diciamocelo piano piano. No, c'è una cosa che lui non ha esplicitamente detto, che vuole la caduta di Renzi. Non l'ha detto, non l'ha detto, lo vuole tenere in campo per tenerlo pronto per una trasmissione, lo vuole conduttore. Cioè, quello che lui è chiaramente ha detto è che lui dopo il 5 dicembre si apre un'altra partita. Si siede al tavolo per trattare con Renzi, a seconda di, e se vince no tratta da posizione di forza, esatto. E se vince sì meno. Scusa, l'altra cosa che mi ha colpito Giovanni nell'intervista è che lui al Milan fa tutto, cioè i cinesi. No, no, vorrebbe fare. No, ma secondo me farà tutto perché. No, ma quello, quella è la sua richiesta. I cinesi mettono i soldi. E lui, su richiesta dei cinesi. Sì, certo, non è che lo vuole lui, no, ovviamente. Su richiesta dei cinesi resta lui insieme a Galliani. Quello è un. Insomma, quindi ha detto no? A che cosa? A cosa? Al referendum, un voto non no. Lo so, io non lo so. Ogni ascoltatore è libero di interpretare. Mi pare che il no più secco sia quello al fatto che lui è, insomma, è presente e non ha nessuna intenzione di ritirarsi, come diceva qualcuno. È quello il vero no che ha dato. Vediamo un po'. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS, pubblicità. Mix 24. Molti SMS naturalmente, pochissimi quelli firmati, soprattutto quelli di insulto. Uno che invece lo firma e lo leggo ed è Alessandra, e dice: poi accusano Renzi di essere bugiardo. Io non sono renziana, ma che Berlusconi non abbia mai mentito, abbia fatto tutto ciò che aveva promesso e ben più di una barzelletta, dice Alessandra. Ma in effetti Berlusconi nell'intervista ha detto che in campagna elettorale i leader sono tutti un po' bugiardi, non è che ha detto che lui non lo era. Tutti i leader in campagna elettorale raccontano un po' di balle, questo per amor di verità. Ma intanto, Pietrangelo, cosa ci fai ascoltare oggi? Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire, et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd. La nuit tu m'apparais immense. E allora? E allora niente, così. Oggi mi è venuta voglia di mettere questo brano e di dedicarlo ad Agostino. Ad Agostino? Ah. Sì. Sai quante donne si arrabbiano oggi? Intanto proprio. E non credo, Agostino le accontenta. Ah sì, Agostino. Va bene. Accidenti, va bene. Intanto proprio questa mattina verrà presentato a Milano una ricerca a cura del gruppo Adecco, una multinazionale della selezione del personale, dal titolo I Big Data e le professioni del futuro. Con Maglio Ciralli, capo della sezione Brand Innovation di Adecco. Che cosa sono i Big Data? Allora, i Big Data, potremmo dare una breve risposta, sono, come dire, un'opportunità di vantaggio competitivo e di osservazione, quindi le aziende possono ricorrere a una quantità di dati per varietà, per volume, per diversità, che possono essere trattati attraverso algoritmi e possono dare dei vantaggi in termini di efficientamento, efficienza e opportunità. Dunque, possiamo dire che se prima c'era l'Istat che forniva ogni 10 anni una fotografia della struttura sociale e economica del paese, oggi i big data fanno più o meno lo stesso attraverso l'informazione del web, è così? Diciamo che le informazioni che si mixano possono provenire dal web, possono venire dai canali social, possono venire da quelli che sono i sistemi aziendali, come dire, anche di vendita. Ma rispetto all'Istat? Ma sa, rispetto anche all'Istat ormai posso dire che la velocità con cui arrivano è minuto per minuto, quindi diventano molto più attuali se sono gestibili e se sono all'interno di database che possono essere, come dire, utilizzati in tempo reale. Senta, ma i big data sono sempre validi e attendibili? Dipende dall'algoritmo che li analizza, immagino. Dipende dall'algoritmo che li analizza e onestamente c'è bisogno sempre di qualcuno che sta alle spalle, che riesca a identificare quelli che sono fondamentali, quindi per il tipo di organizzazione per i quali vengono utilizzati, per dare una risposta, sì, come dire, chiara, concreta. Ma diciamo che questi signori algoritmi sono sempre di più i nostri padroni, perché poi alla fine sono loro che ci dicono che cosa. Guardi, sono, come dire, dell'opportunità, ci consentono di fare delle analisi da un certo punto predittive, ci consentono di essere molto più in qualche modo efficienti e quindi automaticamente di rispondere a esigenze di velocità in maniera molto più puntuale. Senta, ma i big data, dottor Ciralli, in quali campi possono essere utilizzati? Possono essere utilizzati in ambito commerciale, possono essere utilizzati in ambito marketing. E le aziende sono pronte per utilizzare questi big data o no? Noi abbiamo appena condotto una indagine su circa 300 aziende italiane di varia dimensione e purtroppo non sono prontissime, non c'è una... Cosa manca? Naturale. La cultura? Mancano gli strumenti? Cosa manca? Intanto forse non c'è ancora una totale consapevolezza quindi di quella che è l'importanza dei big data, e i big data automaticamente stanno generando nuove professioni che oggi non sono all'interno delle organizzazioni. Ecco, parliamo di queste nuove professioni. Quali sono queste nuove professioni? Sostanzialmente da una parte c'è qualcuno che questi dati li deve in qualche modo realizzare, quindi sicuramente ci sono... chiamiamoli dei data scientist, quindi scienziati di data che sono quelli che riescono a gestire, lo dicevamo un attimo prima, a mettere in correlazione gli algoritmi nel modo migliore per restituire un dato che poi sia funzionale. Ma poi ci sarà bisogno di qualcuno che questi dati possa anche comunicare, quindi si parla di data communication specialist, addirittura si parla adesso più recentemente di data storyteller, quindi la capacità non solo poi di interpretarli ma anche la capacità di raccontarli e utilizzarli all'interno delle diverse funzioni aziendali per renderli funzionali. Sì, ma voi che siete una multinazionale della selezione del personale, in concreto... questi big data come vi aiutano a selezionare di più e meglio, in modo più mirato, il personale? Ma guardi, nel nostro caso è abbastanza semplice. Noi in qualche modo facciamo il match tra quelli che sono le risultanze del mondo universitario, quindi se oggi vediamo quelli che sono, non so, i laureati, mi faccia dire in matematica o in statistica, sono quelli che hanno livelli di occupazione e occupabilità molto più rapidi, vuol dire che sono quelli più ricercati, certo, e quelli che hanno una grande carenza. Quindi questo è il primo dato, il primo match fatto poi con l'azienda dall'altra parte, capiamo che le aziende oggi non sono ancora pronte, quindi probabilmente non conoscono qual è ancora l'importanza, il nostro obiettivo è quello di sempre di più educarle rispetto a quelli che saranno necessità future. Ma facendo dei corsi, facendo cosa? Facendo dei corsi sicuramente a livello universitario, quello che abbiamo oggi lanciato con grandi risultati è l'alternanza scuola-lavoro, che sarà sempre di più in ambito digitale. Noi abbiamo appena lanciato anche un portale dell'alternanza, quindi che mette in correlazione istituti e imprese, perché questi ragazzi, come dire, abbiano un ingresso nel mercato del lavoro molto più fluido. Modello tedesco, diciamo, nell'alternanza scuola-lavoro. In più abbiamo anche sollecitato l'organizzazione di due realtà molto più verticali all'interno del nostro gruppo, che si occupano fondamentalmente di personale, persone, professionisti del mondo dell'information technology. Una di queste si chiama Odis e un'altra che invece è legata al mondo dell'ingegneria, e lavoriamo prevalentemente quindi con figure legate all'innovazione nell'ambito ingegneristico. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, hai una bolla? Sì. Mistress on me now. Allora, gli ACDC, un gruppo inossidabile. Oggi è Thanksgiving in America, quindi i mercati sono chiusi. Questa è buona notizia per noi, in realtà, perché ce la scampiamo un po' dalle tensioni, dall'impatto del cosiddetto sell-off, della vendita dei titoli di Stato. In America ci sono rendimenti molto alti, prezzi molto bassi, si sta ripercuotendo questo sul mercato italiano. Segnalo la realtà, come sempre, delle cose, possibilmente senza fare grandi voli pindarici, e cioè che il nostro jumbo bond a 50 anni, ricordi che ne parlammo qua qualche giorno fa, sì, con Boccia e sì, con Tremonti. Beh, è interessante vedere la parabola di questo titolo emesso a mezzo secolo. È precipitato a 83,5, era stato collocato a 97,2. Per essere chiari, ogni milione investito di euro sono 137 mila euro di perdita sul capitale. Vabbè, a oggi bisogna aspettare tra 50 anni come sarà. Tu sai cosa penso io, vero? No, che non bisogna mai scommettere contro la storia. L'emissione di un titolo a mezzo secolo è una specie di follia finanziaria. Sì. Tra 50 anni non sappiamo che cosa sarà del paese. Comunque, seguite la quotazione di questo bellissimo titolo Matusalemme. Jumbo Bond. Pietrangelo Salamino. C'è muro e muro. Oh, Donald Trump si rimangia mattoncino dopo mattoncino il muro al confine col Messico. E la sinistra al caviale invece, cioè il collettivo dei ricchi comunisti chic di Capalbio invece, la piccola Atene, che cosa fa quella degli uomini chic e femmine pettate? Fanno e affrontano al meglio la questione dei migranti, un più che muro. Ascoltiamo. Tanto troveremo pure una casa, un albergo, una strada, una superstrada, un motel. Oh, Madonna, finalmente questo incubo è finito. C'ho una voglia di un caffè? Freddo, eh? Nella piccola Atene dei compagni di lotte aperitivo, che è il Pantheon ambito di scrittori e popolo al seguito di Asor Rosa, del principe Nicola Caracciolo, delle loro maestà democratiche Giorgio Giulio e Clio Napolitano, tutti campioni della solidarietà, nonché testimonial, lo hanno detto, no? Testimonial del sì al referendum, però dicono no ai migranti, ai profughi, agli extracomunitari. Giovanni, eppure no a chi? Ai vatussi. Nel continente nero, barabonzi bonzi bo, alle falde del Kilimangiaro, barabonzi bonzi bo, ci sta un popolo di negri che... Oh, i progressisti sì che sanno fare i respingimenti, con grande slancio umanitario lo fanno, perché i padroni del politicamente corretto hanno mandato a fare in piffero 50 poveri disgraziati richiedenti asilo, costringendo oltretutto le autorità, cantonieri, pompieri, brigadieri, guardie costiere, a fare marameo alle quote di distribuzione dei migranti, come meglio di Marine Le Pen, come meglio di Orbán, come meglio di Meloni, come meglio di Salvini, come meglio di qualunque populismo. Per esempio Chicco Testa, che è un altro protagonista della piccola Atene di Toscana, per evitare che i profughi bighellonassero, aveva fatto pure un servizio su chi? Un servizio fotografico in compagnia di profughi che non bighellonavano. Ma io mi sono chiesto, cinema non cinema, immaginazione o non immaginazione, fantasia non fantasia, che è sempre la stessa sindrome chic di indovina chi viene a cena. E ci chiediamo... E facciamo domanda che ci domandiamo tutti. Indovina chi viene al Lido? Mi faccia capire come la vede lei. Dunque, allora, io sarei naufragata, eh? Sono venuta qua in questo postaccio di merda per andare a letto con lei, eh? Con quella bestia lì, vero? Bel esemplare di maschio mediterraneo, ma dico. Ma si è mai guardata allo specchio lei? Sì, signora. È il mitico signor Carunchio, Mariangela Melato e Giancarlo Giannini. Senti, però in realtà il regista Faenza, che c'ha la casa a Capalbio, l'ha messa a disposizione dei... E infatti Faenza non... Non l'hai citato. Non l'hai citato. Ma perché che c'entra? Quello oltretutto è una firma del fatto, è un signore. Sì, veramente. Okay. Tremendo. Allora, ancora una bolla. Sì, un aggiornamento. Gloria ha messo i Queen, eh? In effetti. Allora, e ho un aggiornamento sull'Iran. Ricordi che ieri avevamo aperto con appunto le prime tensioni. Beh, ne abbiamo parlato anche con sulla questione iraniana, esatto. Allora, le cose stanno cominciando a bollire in pentola. Non a caso le chiamiamo bolle, perché dopo il via libera a vendere gli aerei dell'Airbus e quindi anche poi a fare affari con la Boeing, eccetera, c'è il problema, c'è il mercato del petrolio, vabbè, ma c'è il problema del Congresso, che sta complicando enormemente le cose, perché praticamente loro, i congressmen, hanno votato una nuova legislazione che estende di altri 10 anni le sanzioni. Le sanzioni scadono quest'anno, quindi si profila un arrivo di Trump a gennaio e un bill, cioè una legge che rimette tutto in discussione. Tant'è che questo è il fatto notevole, nuovissimo. Khamenei, l'ayatollah, ha detto: bene, Se ci saranno le sanzioni, se voi mettete le sanzioni, noi allora risponderemo e riterremo questa decisione degli Stati Uniti d'America una violazione dell'accordo sulla proliferazione nucleare, il 5 più 1. Quindi il vero primo punto della politica estera che dovrà probabilmente affrontare Trump sarà proprio quello di chiarire la strategia con l'Iran. È molto interessante, è una cosa da seguire con grande attenzione in questi giorni. Cambia le alleanze, sì, le strategie geopolitiche. Intanto una notizia: è morto Vittorio Sermonti ieri sera a Roma, all'ospedale Sandro Pertini, attore, regista, scrittore. Vittorio Sermonti aveva 87 anni e una sua rilettura di Dante, che ha girato l'Italia, ha avuto una grande fortuna, veramente di altissimo livello. Sermonti, sì. Canzoniere. Un istante di infinito che è il fruscio di un'ape tra le piante, una comunione che ha gusto di fiore, un mezzo di potersi respirare un po' il cuore e assaporarsi l'anima a fior di labbra. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, aiutino piccolo. È un istante d'infinito, al fruscio di un'ape, sta tra le piante, e a gusto di fiore. Aiutino, se lo dico. Va bene, viabilità. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Mix 24. Natale 1924. I rappresentanti delle principali aziende elettriche del mondo si riuniscono a Genova per prendere una decisione che cambierà il mondo. Qui c'è un documento del cartello. Dice: la durata media delle lampade per fornire elettricità non deve essere né garantita né divulgata e né offerta ad un valore diverso da 1000 ore. A 1000 ore viene fissata la durata massima di una lampadina. Per la prima volta si abbrevia di proposito la vita di un prodotto, con un chiaro obiettivo. L'obiettivo era quello di scambiare brevetti e controllare la produzione, ma soprattutto di controllare il consumatore. Queste società preferiscono che il consumatore acquisti le lampadine regolarmente. Se queste ultime sono usate per molto tempo, per l'industria c'è uno svantaggio economico. È la cosiddetta obsolescenza programmata, un meccanismo occulto che cresce nelle società consumistiche e ne sostiene lo sviluppo, una sorta di religione del consumo. Insomma, per i gialli della storia, dopo il giornale radio, una puntata molto interessante che è dedicata alla nascita della società dei consumi, a come la durata dei prodotti in realtà è stata progressivamente sempre più programmata, cioè a cicli, costruiti per rompersi, per finire, non per durare. Purtroppo. La società dei consumi vive su questa, ma c'è stato un giorno, lo racconteremo nei dettagli, un giorno in cui questo è stato programmato e deciso. C'è ancora una bolla, Mario? La verità, non trovo una parola migliore, è valida. La verità è giusta, la verità funziona. La verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. La verità in tutte le sue forme, la verità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. Beh, allora, la verità è certamente uno dei motori dell'animo umano, bisogna non esagerare, però ne hanno avuta per esempio gli spagnoli. Segnalo che sono usciti dati sulla produzione, sono molto interessanti perché intanto crescono più 0,7 e soprattutto hanno una media mostruosa annuale, cioè 3,2 nel trimestre. Tu pensa che la media europea, Giovanni, è 1,6. Cioè, questi sono stati un anno senza il governo. La prova governo. Provata che senza due, governo si vince. Due elezioni in stallo e dopodiché, insomma, hanno fatto questi risultati. Hanno fatto riforme prima. Questo certo. È il punto, bisogna pensare all'Italia che ha questa crescita così bassa, così bassa. Dopo il referendum, secondo me, sarà bene tornare a fare, sì, tornare a rimboccarsi. E intanto abbiamo Riccardo da Roma. Riccardo, buongiorno. Buongiorno. Dica, lei telefona per il canzoniere? Sì, telefono per il canzoniere. Ah, allora dica. Dovrebbe essere Inno romantico al valore del Cyrano di Bergerac. Giusto. Sì. Io non lo sapevo. Cyrano, e l'autore lo vogliamo dire però? Il Cyrano de Bergerac. Di chi è l'autore? L'autore. L'autore. No, una domanda esagerata. Come esagerata? Ma buttafuoco è così, è terribile. Quando, terribile proprio. Quando insegnava dava zero a tutti. Sì, terribile, terribile. Cattivissimo. Vabbè, comunque noi la prendiamo per buona. Come la prendete per buona? Dai. Vabbè, lo dico io, è Rostand. L'autore è Rostand. Va bene, grazie. Grazie, arrivederci. Adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. British Medical Journal, agosto 2016. Variabilità della pressione arteriosa e malattie cardiovascolari. La pressione arteriosa è uno dei killer più importanti di questo tempo, tenendo presente che oltre il 60% degli ultra 65 anni hanno la pressione arteriosa alta, che spesso però non se la misurano, perché di fatto la pressione arteriosa tante volte non dà segni, è una malattia silenziosa. Qualche volta ci se ne accorge perché un po' di mal di testa, un po' di giramento di capo, ma insomma, intanto misuratevela ogni tanto, perché si possono trovare delle sorprese. All'interno di questi numeri, il lavoro in questione vuole andare a vedere non tanto gli effetti della pressione arteriosa media, ma quanto delle variabili, delle pressioni arteriose che variano, come capita ogni tanto ai malati che vediamo ogni giorno. E allora tenete presente che questa variabilità è una cosa importante, perché sia nel breve che nel medio-lungo termine la variabilità della pressione durante la giornata, pressione alta naturalmente, è associata a un 10-15% di aumentato rischio di eventi cardiovascolari. Quindi non solo e non tanto andate a vedere quant'è più o meno la vostra pressione, ma se c'ha un andamento, come dire, movimentato nel tempo, perché questo aumenta il rischio, e quindi a maggior ragione bisogna non solo trattarla, ma essere molto attenti al trattamento. Altro problema, perché spesso gli ipertesi sanno di avere la pressione alta, ma si scordano di trattarla, si scordano la pillola che li metterebbe tranquilli e risolverebbe il problema. Quindi attenzione tutti, la pressione alta è un fatto frequente, bisogna trattarla, bisogna stare attenti se è variabile, e non dimenticarsi mai la pillola per tenerla normale. Ebbene, e allora per chiudere, Gloria Guerrera? Una canzone per chi conserva con delicatezza un'immagine di sé che non sarà mai. Loredana Bertè, dedicato. A chi ha cercato la maniera e non l'ha trovata mai, alla faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai. Dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce e non si butta giù. Ai miei pensieri, a com'ero ieri, anche per me.